Noi venivamo con tre pullman da Berlino, siamo stati fermati ieri a circa una quindicina di chilometri da Berlino per essere per il primo check, il primo controllo. Siamo rimasti lì per delle ore, dopodiché ci hanno dato due opportunità, la possibilità di tornare a Berlino oppure di fermarci scortati, naturalmente, arrivandoci scortati in un paesino vicino Francoforte, di nome Ashburn. Siamo stati lì per qualche ora finché la polizia non ha arbitrariamente deciso che noi comunque volevamo proseguire verso Francoforte, anche se l'assemblea in cui ci eravamo riuniti addirittura aveva deciso di rimanere lì nel paesino e di attendere questa mattina per poi decidere come muoversi. E niente, hanno deciso di imprigionarci tutti, in poche parole, di portarci via tutti. E quindi ci hanno accerchiato e lentissimamente ci hanno caricato sulle camionette, disperdendoci in varie caserme fuori Francoforte. E le esperienze insomma sono terminate tutte, tutti siamo stati liberati intorno a mezzanotte di ieri sera. Però insomma le vicende che ci siamo vissuti nei diversi luoghi sono state anche abbastanza differenziate. Il controllo, il riconoscimento, l'identificazione è stato molto, molto pesante, molto accurato da parte di tutti gli agenti. Comunque c'è chi appunto sono state prese impronte, foto, segnaletiche e quant'altro. Per quanto mi riguarda, nella caserma che poi stava vicino alla torre della televisione di Francoforte, quindi eravamo quelli insomma relativamente più vicini alla zona rossa, addirittura ci hanno spogliato nudi e ci hanno messo in celle di isolamento, al che insomma, visto che tra l'altro non c'era una guardia che parlasse nemmeno inglese, io a quel punto mi sono anche un po' agitata, ho cominciato a richiedere fortemente un aiuto legale e per fortuna il legal team era composto anche da un avvocato che parlava italiano e quindi sono riuscita a farmi sentire. Dopodiché la volontà era quella di farci firmare delle dichiarazioni che tra l'altro non avevamo rilasciato in nessun modo, anche perché non riuscivo neanche a comunicare con le guardie, quindi sono riuscita a non firmare niente. Altri di noi hanno firmato delle dichiarazioni che però hanno cercato di mediare in qualche modo e di conseguenza niente, poi più o meno siamo stati tutti rilasciati. Il trattamento comunque è stato abbastanza duro e anche i trasporti, ci trasportavano su queste camionette provviste di celle singole in cui ti lasciavano per 40 minuti senza dirti niente, senza insomma nessuno capiva cosa sarebbe successo. Addirittura quando siamo entrati in caserma ieri sera sembrava ci dovessimo rimanere per 3 giorni. E comunque adesso la città è completamente bloccata. Oggi addirittura ci sono stati 500 arresti, che forse le uniche 500 persone che erano riuscite ad arrivare nella zona della BCE sono stati tutti arrestati e sono al momento detenuti in varie caserme fuori Francoforte. Di conseguenza la situazione è quella di una città, di un centro città completamente pieno di guardie e vuoto di tutt'altro tipo di persone e senza alcuna possibilità di agibilità e per la possibilità quindi di dimostrazione, di manifestazione. È tutto chiuso, le banche sono chiuse, questo forse è il risultato più positivo che abbiamo raggiunto, anche se non siamo riusciti, praticamente noi ancora non siamo riusciti ad entrare dentro questa fantomatica zona rossa che si allarga ogni giorno di più. Da un piccolo centro che era quello delle strettamente vicino alle banche, ormai si è allargato in modo esponenziale fino all'università dove mi trovo adesso, che è l'università Goethe, che al momento risulta tra dentro e fuori questa linea rossa. Al momento anche all'università qui c'è veramente poca gente, perché tra chi insomma oggi sta facendo assolutamente altro, perché praticamente siamo stati tutti diffidati dall'entrare all'interno di questa zona rossa che appunto abbiamo detto è ormai amplissima, fino alle 7 di domani mattina, perché domani mattina ci sarà poi la manifestazione, l'unica manifestazione autorizzata. Di conseguenza oggi tutte le azioni che erano state previste per oggi e per ieri sono ovviamente tutte esaltate, l'unico appunto il dato positivo è quello che è tutto chiuso, le banche sono chiuse, tutto il centro è chiuso e blindato, quello forse è appunto l'unica cosa positiva che, insomma, che possiamo portare come, come esperienza. La polizia ha bloccato la città. La polizia appunto ha bloccato la città.